Un buongiorno ad Anita Magno e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno a voi, grazie. Febbraio è un mese pieno di novità per Mesogea Edizioni e partiamo dall'iniziativa MiGraphic che dura tutto appunto il mese di febbraio. Di cosa si tratta? Si tratta di un'iniziativa di promozione di un fumetto che è l'ultima uscita di Cartographic, la collana a cura di Elettra Stambulis di Mesogea, e che tratta il tema estremamente attuale e spinoso della migrazione visto dal punto di vista del fumetto. Quindi abbiamo chiesto al gruppo, anzi veramente ce l'hanno proposto loro, al gruppo di Umana Solidarietà di Macerata, grazie al contributo importantissimo di Gianluca Costantini, di insomma consentirci di pubblicare questo bellissimo volume di 10 ragazzi, giovani artisti di talento, che insomma raccontano la migrazione attraverso 10 storie diverse e 10 interpretazioni diverse. The Quay è il titolo della raccolta, è proprio appunto questo, il racconto di viaggi di sola andata con ritorno. Noi abbiamo pensato di fare un'iniziativa che coinvolga tutto il mese di febbraio, cercando, siccome sono tanti ragazzi, giustamente è difficile magari trovarli tutti in un video, di alternare delle staffette di live drawings sulla pagina di Edizioni Mesogea Culture Mediterranee di Facebook, in cui i ragazzi in mezz'ora devono fare un disegno che riguardi ovviamente anche il nostro volume e che insomma faccia anche vedere il loro stile. E devo dire che finora è andata molto bene. Ne abbiamo fatti due, in cui quattro ragazzi di 10 si sono cimentati a fare questa specie di maratona live, loro sono stati brevissimi e poi insomma alla fine oggi ce ne sarà un'altra e dopodomani un'altra ancora che chiude il ciclo di live drawings e poi alla fine il venerdì presenteremo il volume con la collaborazione del Comicon di Alino, con Gianluca Costantini che è il curatore di Backway e con Massimo Vita che invece è il curatore del progetto di Macerata, del bus di Macerata. Dal 28 febbraio il vostro catalogo si amplierà con una traduzione della famosa Argonautiche di Apollonio Rodio invece. Esatto, sì, Mesogea ha una lunga tradizione di recupero dei classici e degli diciamo dei poemi di età ellenistica e non solo. In questo caso si tratta sì appunto di Argonautiche, che è proprio un poema ellenistico, che è un po' conosciuto in tutto il mondo come la storia di Giasone che recupera il vello d'oro. Si può dire che questo sia uno dei tanti recuperi che, grazie alla traduzione decisamente moderna di Daniele Ventre, Mesogea ha fatto per restituire ai lettori immagine di una epica molto vicina a quella che noi pensiamo, insomma, essere la nostra modernità, così lontana dalla classicità. Invece non è così. Grazie ad Apollonio Rodio, soprattutto alle Argonautiche, troviamo degli eroi che sono estremamente umani ed estremamente vicini alle inquietudini di oggi, alle fragilità di oggi. Basta pensare a Medea, che è una figura decisamente emblematica, soprattutto ci arriva grazie alla tragedia Euripidea, che invece qua si trasforma in una donna come tante, tradita come tante, sofferente come tante, che ha rinunciato a tantissime cose, anche alla sua famiglia, per seguire il suo amore che poi viene inesorabilmente tradita. E anche Giasone è un altro personaggio estremamente interessante perché è la Meganos, cioè la persona più passiva, più inattiva del poema, che si avvicina moltissimo a tante figure che possiamo incontrare nella nostra vita, al contrario magari di Polimekanos, come dice Apollonio Rodio, che invece è la persona attiva, la persona che trova soluzioni, è la persona che riesce a trovare la chiave della vita, che non è necessariamente passività e non è necessariamente impotenza, incapacità di trovare una via. E quindi in Apollonio Rodio troviamo la nostra vita attuale, protagonisti di tutti i giorni, e questa è la cosa che ci ha affascinato di più, ci continua ad affascinare, grazie, ripeto, alla traduzione e alla cura di Daniele Ventre. Perfetto, Anita, io ti ringrazio e ci sentiremo alle prossime novità di Mesogea Edizioni. Grazie mille, grazie a voi.